falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Giugno 1984, un giorno d'estate come gli altri. Prime luci del mattino, il sole inizia a illuminare la facciata di un bel palazzo di Corso Magenta 84 a Milano. Qui, in uno degli appartamenti del palazzo, di proprietà della famiglia di costruttori Cabassi, a due passi dal cenacolo, risuonano 5 colpi di pistola. Sono colpi di una Smith & Wesson calibro 38 Special. Siamo nel 1984, in Italia è l'anno della morte di Enrico Berlingueri, segretario del Partito Comunista Italiano, di Bettino Craxi, presidente del Consiglio, della prima e unica volta nella storia in cui il PC supera la DC alle elezioni europee, ma è anche l'anno dell'arrivo in Italia di Maradona, che viene presentato al San Paolo di Napoli il 5 luglio, è l'anno della vittoria di Moser al Giro d'Italia. In pieni anni 80, io avevo 27 anni e per quanto mi riguarda è l'anno, la prima volta che ho cominciato a portarmi a casa dei premi da Sanremo. Ma per quanto riguarda la musica, soprattutto l'84 è l'anno dell'Oscar come migliore canzone a Flashdance, What a Feeling, e la musica è di Giorgio Moroder e il testo di Kate Forsey, che peraltro era un batterista, e di Irene Cara. È un brano che abbiamo sentito tutti, il film lo abbiamo visto, insomma è esattamente lo specchio di quel periodo un po' glamour, il periodo del riflusso, insomma dopo 20 anni di battaglie e di scontri gli anni 80 si vivono in maniera completamente diversa, e allora ben venga anche Flashdance. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world. Siamo in una Milano che cambia volto, dopo essere stata teatro degli anni di piombo, dopo le Brigate Rosse, dopo gli omicidi, eccetera, come spesso accade nella storia, si va dalla parte opposta completamente. E quindi la moda diventa il centro attorno al quale girano notti trascorse in locali, tra alcol, sesso, donne bellissime, playboy alla ricerca di corpi nuovi. È la Milano del fashion, la Milano del design, la Milano del craxismo, che in qualche modo diventa, è il primo momento in cui la politica diventa glamour. I locali si chiamano Nepenta, Bar Roma, Charlie Marx, il Vogue, locali di Brera, tutti locali che hanno clienti VIP, eventi molto piccanti nei quali scorrono litri di champagne, e i soldi che in quel periodo girano vorticosamente. Arrivano le modelle, sono a centinaia, sono bellissime, sono straniere e arrivano da tutto il mondo. Tra queste modelle ce n'è una che si chiama Donna Broom. È una top model molto conosciuta in Europa, ha fatto servizi su Vogue, Harper's Bazaar, ed è sorella di un'altra bellissima ragazza, Terry Broom, un nome che di lì a poco sarà sulle prime pagine di tutti i giornali. Terry nasce a Elgin, in Carolina del Sud. Vive un'infanzia movimentata, vissuta tra Denver, Florida, Georgia, seguendo i trasferimenti del padre, che è un reduce dal Vietnam. Il padre è un uomo violento, duro, molto brutale, che soffre di crisi epilettiche, alcolista, e picchia lei e la sorella e probabilmente anche la madre. Una famiglia incapace di sorridere, e forse da qui partono le prime radici e le prime origini di un disagio. Lui è il primo uomo che rende a Terry la vita impossibile. A 15 anni scappa di casa, fa l'autostop, accetta un passaggio in moto da un ragazzo di colore che, invece di aiutarla a scappare, la porta in un prato dove chiama dei suoi amici e tutti la violentano per una notte intera. Quando lei racconterà la sua atroce disavventura al padre, lui commenterà: ecco, così impari. A 18 anni, pur di andare via da tutto questo orrore, sposa un coetaneo, si chiama Michael Smith. Le nozze ovviamente durano poco, meno di un anno. Divorzia e comincia a entrare e uscire dalle cliniche specializzate per disintossicarsi da droghe di vario genere. A questo punto bisogna andare via, bisogna partire. Lei va a New York, la grande mela dove tutto appare possibile, anche cambiare vita e costruirsene una nuova. Il lavoro da modella però la fa entrare in un vortice di sesso senza memoria, droghe, delusioni. Arriva a tentare il suicidio tagliandosi i polsi, poi torna a casa dei genitori e quando a Natale incontra sua sorella Donna, che in Europa sta facendo successo come modella, pensa che forse può ancora salvarsi. C'è da dimenticare una violenza subita, un matrimonio sbagliato, i guai di sua madre, gli errori commessi. Lei non ci pensa due volte e la sorella Donna comincia a avere dei soldi, le compra un biglietto aereo, parte su un jumbo della American Airlines e arriva a Milano con pochi risparmi. Siamo nell'aprile 1984, appena messo piede sul suolo italiano viene derubata di tutti i suoi averi, $900. Ma lei è una donna di 23 anni, bellissima grazie al suo corpo perfetto, capelli ramati, occhi verdi, sguardo ammiccante. Difficilmente si può candidare a morire di fame. Può fare parte del mondo dorato della moda e delle passerelle. Diciamo che si siede sul suo destino. Appena tocca il suolo meneghino, fa provini, non sfonda subito, ma si mette pochissimo a far parte della Milano da bere degli anni 80. Clarissa Barth ha conosciuto le due sorelle Brun proprio in quel periodo. Lei è arrivata 6 mesi prima di Terry e in quegli anni, e lo racconterà Bruno Vespa, Milano era come Disney World. In giro c'erano molti tipi, quasi tutti poco affidabili. Sentiamola. Milano per noi sembrava Disney World, Disneyland, perché arrivate eravamo carine, belle, eravamo giovani, eravamo piene di voglia di vivere. Questo mondo della moda negli anni 80 era un mondo felice, florida, c'era veramente un gran fervore intorno a quello che era la moda. Chiaro che noi da giovani si usciva spesso, si andava in discoteca, ed è lì che io ho conosciuto Terry. Conoscevo bene Donna, la sorella, ma l'ho conosciuta una o due volte, non è che l'ho frequentata, ma l'ho conosciuta. Ed era una ragazza semplice, carina, normale, come tutte molte altre ragazze che arrivano in cerca, insomma, della fortuna. Non conoscevo lui bene, ma anche lui lo vedevo in giro nei stessi giri. Non capivo, cioè non conoscevo i soggetti, non capivo bene, cercavo di captare, però devo dire che si capiva che magari in lui c'era qualcosa di, posso dire, un po' losco, non lo so. Abbia voglia di guardare le foto dell'epoca, vedrebbe una ragazza bellissima, magnetica, con gli occhi verdi, è Terry Broom. Terry Bromo, arrivata dall'America, entra in fretta in un mondo che ha veramente pochi valori: nottate a sniffare, weekend di sesso, scambi di coppia e alcol a fiumi. È invitata dalla gente che conta, a party, festini. È proprio a una festa come tante durante un weekend nella villa del noto viveur Carlo Cabassi che Terry incontra Francesco D'Alessio. Lui è un quarantenne un po' debosciato, conosciuto da tutti nella Milano che conta. La gente cosiddetta bene lo vede apparire ogni sera nei night e nei ristoranti più famosi, sempre in compagnia di qualche bellissima ragazza. È un prepotente, ama collezionare belle donne, un vero e proprio playboy, romano di nascita, milanese d'adozione, figlio di un avvocato molto ricco, conosciuto diciamo come allevatore di puro sangue. In realtà non è uno che si ammazza a lavorare, perché i soldi ce li ha già di famiglia. È un Marcantonio di uomo, un ex rugbista, ex tennista, ex tutto, ex marito della modella americana Sheryl Stevens, dalla quale ha avuto due figli. È un grande scommettitore e gli piace molto la vita della Milano by night. Lei, Terry, è nella villa di Cabassi con il fidanzato del momento che si chiama Claudio Caccia. Lui, Francesco, è lì alla ricerca di sesso e belle donne. Diciamo che è un vero e proprio playboy come ce ne sono tanti in quel periodo. Tra loro scatta però qualcosa di diabolico. Francesco ci prova subito nella sala da biliardo, lei lo rifiuta e lui questa cosa non l'accetta perché sa che lei ha avuto rapporti con altri uomini e quindi questo no a lui non si può dire. E da quel momento D'Alessio inizia a perseguitare Terry. Telefonate, battute pesanti, insulti, approcci molto poco signorili. Diventa un problema per Terry, un'ossessione, anche perché i posti sono sempre gli stessi. Lei è costretta a rivedere D'Alessio anche se non vuole. Intanto Terry ha cambiato compagno, inizia a fare coppia fissa con un ragazzo, 31 anni, Giorgio Rotti. È un commerciante di gioielli, è uno che si era innamorato davvero di lei. Non è bello, un po' grassoccio, però anche lui comunque ama tirare mattina e naturalmente si fa un po' di cocaina per stare sveglio e poi qualcos'altro per dormire, e ama camminare per Milano con la sua pistola Smith & Wesson nella cintola. La notte del 25 giugno Terry Broome e Giorgio Rotti sono al Nepenta. Con loro ci sono anche Donna, la sorella, e il suo fidanzato. Terry non mangia da due giorni, ha bevuto succhi di frutta, whisky, si è tenuta su con la cocaina. Il suo fidanzato ne ha quanta ne vuole, la tiene nel ciondolo della sua collana e poi ovviamente la tiene anche in casa. Francesco D'Alessio inciampa vicino al loro tavolo, iniziano le offese, le provocazioni. D'Alessio racconta al fidanzato particolari scabrosi su Terry, insomma un vero signore. Lei è sconvolta, vorrebbe già andare via, si alza, va in bagno, lui la segue. In un angolo del locale D'Alessio continua a importunarla, accenna addirittura a una masturbazione, e poi Terry e Giorgio escono per tornare a casa, ma quell'episodio dà origine a un grosso litigio tra i due fidanzati. Insomma, non fa piacere se la tua fidanzata viene corteggiata in questo modo. Giorgio scopre particolari poco edificanti sul festino a casa di Cabassi. Sono al residence principessa Clotilde, dove dormono tutte le modelle negli anni 80. Lui la ospita lì da un mese, le chiede di restituirgli i gioielli, l'anello di fidanzamento. Insomma, Terry ha paura di avere mandato in fumo il suo matrimonio e quindi il suo futuro proprio per colpa di D'Alessio. Quando il fidanzato si addormenta non riesce a prendere sonno, è agitata, ha troppa droga in corpo e allora il nervosismo è alle stelle e sniffa ancora e cerca dei giochi elettronici per passare il tempo, ma trova invece la pistola del suo fidanzato, di Giorgio. La prende e si veste, indossa un giubbottino nero, sniffa altra cocaina per darsi coraggio, chiama D'Alessio e dice di chiamarsi Diana e va a trovarlo. Sono le 6 del mattino. In casa lui non è solo, c'è anche una fotomodella americana bionda, si chiama Lori Marie Roico, ha 21 anni. Questa sarà poi la testimone chiave per quello che sta per succedere. Aveva cominciato la serata con qualche amico al White Bar di via Vincenzo Monti, poi si era spostata al Vogue di Corso Buenos Aires. Qui aveva incontrato Carlo Cabassi e a bordo della sua Ferrari era rientrata a casa in Corso Magenta. Dopo una discussione lei voleva andarsene, quindi vedete tutte queste storie di donne che bevono, pippano, se ne vanno, tornano. Anche questa è annebbiata da parecchi superalcolici e aveva incontrato D'Alessio, cioè l'uomo già conosciuto a un'altra festa, che l'aveva invitata a risalire, reduce lui da una serata trascorsa prima al Caffè Roma, poi al Nepenta di Piazza Diaz, dove aveva avuto il confronto con Terry Brun, di cui abbiamo già parlato. Quando Terry gli citofona, lui è contento di rivederla. Immagino che il suo pensiero sia stato: dove si sta bene in due, si sta bene anche in tre. Ma lei è furiosa e fuori di testa, iniziano a litigare, tira fuori il revolver e spara. Il primo colpo va a vuoto. L'altra ragazza, Lori, scappa, si chiude in un'altra stanza e D'Alessio si avvicina a Terry. Lei lo centra con altri due colpi. Mentre Terry è già a bordo di un taxi pensando di riuscire a tornare negli Stati Uniti, Lori scende di qualche piano, va da Carlo Cabassi e lo avverte che suo amico è stato ucciso. Lui si precipita nel lussuoso appartamento di Francesco, fa sparire la cocaina che c'è in casa e poi chiama l'ambulanza e la polizia. Alle 7.30 Terry Brun è già nell'appartamento di Giorgio, lui sta ancora dormendo. Giorgio, svegliati. Che c'è? Devo partire, accompagnami all'aeroporto. Perché? Voglio partire subito e tornare a casa mia. Va bene, ti porto, ma calmati. Cos'è successo? Ho sparato a Francesco. Terry ha fretta. Giorgio l'accompagna allo scalo di Linate. Lei si imbarca sul volo 621 della Swissair alle 10.35 del mattino, direzione Zurigo. Giorgio le presta 300.000 lire. Quando Terry arriva in Svizzera, chiama Giorgio, gli dice dove si trova. È una pensione che casualmente si trova davanti a un commissariato della polizia cantonale. In tarda mattinata la squadra mobile di Milano riceverà una telefonata anonima. So che Terry Brun è fuggita e so dove si trova. Ora Terry Brun è al Bahnpost di Zurigo, Reiter Grasse numero 6. Così la polizia svizzera in poche ore la rintraccia. Alle 2 del mattino seguente i gendarmi svizzeri bussano alla porta della camera numero 2. Si trovano davanti una splendida ragazza americana con gli occhi a fessura, ancora addormentata. Si lascia ammanettare senza ribellarsi. Quando l'accompagnano al commissariato, lei chiede un avvocato. Non è possibile ora, le rispondono, e lei allora dice: vorrei dormire ancora un po'. E poi ammette di aver ucciso D'Alessio per rabbia e odio. E parla del revolver dell'amico Giorgio che ha usato e rimesso a posto nell'armadio. Quella confessione sarà un attenuante durante il giudizio. Intanto la polizia italiana perquisisce la casa di Rotti, che viene accusato di favoreggiamento personale continuato. L'ha aiutata a fuggire, ha sostituito i bossoli vecchi con bossoli nuovi. Terry Brun viene riportata a Milano. Falco e il Gabbiano. Stiamo parlando di una ragazza che incontra il destino dalla parte sbagliata. È una americana, giovane, bella, del Sud Carolina, che da bambina già inizia a conoscere le brutture della vita. Crede di esserne scappata dalla vita brutta proprio perché è una donna bellissima, però non ce la fa. Questa ragazza si chiama Terry Brun, è arrivata a Milano piena di speranze, ma incontra la cocaina e soprattutto Francesco D'Alessio, quarantenne, figlio del re del Garoppo, predatore di Cover Girl, e quindi diventa un'assassina. Alle 6 del mattino di un giorno di giugno dell'84 uccide l'uomo che in quel momento le stava rendendo la vita ancora ancora più difficile con la sua arroganza e le sue prevaricazioni. Quest'uomo si chiamava Francesco D'Alessio. Terry, nel memoriale rilasciato in esclusiva al settimanale Oggi, al momento del suo rilascio, ne parlò così. Francesco l'ho conosciuto durante una festa, faceva parte di quel giro, l'ho incrociato dappertutto. Non è facile per me parlare di lui, non posso dipingerlo come un santo, ma neppure ripetere le cose terribili che dissi durante il processo, che si masturbava davanti a me, che mi trattava male, che lo odiavo. Nella mia testa allora la verità era quella, ma oggi posso dire che quel ricordo di lui è morto. E non è giusto dirlo, però ricordo che mi spaventava, mi faceva paura. Ricordo la voglia di scappare via. Non l'ho visto morire, ma ero fuori di testa. Destino poi, a volte, gioca degli scherzi molto brutti. Pensate che una foto di Donna Brome, sorella di Terry, era stata scelta tempo prima per la copertina del suo romanzo giallo da Marco Parma, in realtà Paolo Pietroni, il giornalista e direttore di numerose testate di moda. Il romanzo si intitolava Sotto il vestito niente e raccontava proprio di un omicidio nella Milano della moda. Tra l'altro poi è stato fatto anche un film da questo romanzo. Lo stesso Pietroni, che adesso è in libreria con il thriller Io sono un angelo nero, a 30 anni di distanza commenta per noi quel caso così tanto seguito dalla stampa, perché se ne parlò molto di questa storia di cronaca nera nel cuore della Milano del fashion. È una storia che ha stuzzicato la curiosità di tutti gli italiani, intanto perché non sanno gli italiani, o meno non sapevano cosa accadeva dietro alle quinte delle sfilate, e poi perché gli ingredienti c'erano tutti: droga, belle donne, sesso e addirittura omicidio. Ne hanno parlato tutti perché è l'unica storia, diciamo, nera che è emersa dal mondo della moda, che era nerissimo. In realtà il mondo della moda ha sempre fatto un quadrato omertoso di storie nere nel mondo della moda, anche quello alto, ce ne sono state molte. Questo delitto ha comunque un significato particolare, se vogliamo, in quanto lei, nell'ambito di quello che poi è diventato il femminicidio, lei in fondo, anche se uccide, ha avuto il coraggio di ribellarsi, di non subire passivamente le grandi molestie sessuali a cui veniva sottoposta da parte di certi uomini, e ha sparato e ha pagato per quello che ha fatto. Stavo dicendo prima che da questo romanzo Sotto il vestito niente i fratelli Vanzina, che conoscevano bene D'Alessio tra l'altro, hanno tratto un film che ha impaurito gli stilisti, ma che ha ottenuto un grande successo. Peraltro a Sotto il vestito niente seguiranno altri due sequel. Stanotte a Milano ha perso la vita in un incidente stradale la modella Alexandra Larsson. Buongiorno, ispettore Malerbo. C'è stata un'altra modella morta qua a Milano in circostanze misteriose. È omicidio. Non hai riaperto il caso? Ora le modelle finite morte sull'asfalto sono due. Trovi che ha ucciso mia figlia. Ma che succede? Sono venuti due poliziotti italiani a far domande. E minchia piace, depravato. Depravato schifoso. Dobbiamo cercarne una bionda, occhi azzurri, scandinava, sensazionale. Ti farò arrivare al top. Stai attento. Mi dispiace per lei, ispettore, ma io ho un alibi. Quel film è un thriller che rivela il tratto meno luccicante del mondo della moda. È un film che fa paura agli stilisti, che non vanno alla prima della proiezione. E questo fa parlare ancora di più della pellicola e tutti vanno a vederla. Intanto la città di Milano è divisa in zone. C'è la periferia in cui si spaccia eroina mentre un operaio guadagna 600.000 lire al mese. Poi ci sono i parchi in cui si vende il fumo e poi c'è il centro. Nel centro si spaccia la cocaina, a quel tempo molto costosa, 150-180 mila lire al grammo, e in gergo viene chiamata acqua molto frizzante. In un locale come il Vogue una cena media costa 100 mila lire, una bottiglia di champagne 500 mila lire. Quella era la Milano di quegli anni, erano gli anni in cui la cocaina era un vero e proprio status symbol, persone che iniziavano a dire tiro la cocaina per lavorare e poi finivano a essere costretti a lavorare per pagarsi la cocaina. Insomma, molti di questi hanno fatto una fine veramente molto brutta. Crosses the floor, he opens the door, you take a sniff of the street. And she's telling that he's crazy, she's just saying, hey baby, I'm your wife. Yeah, she's telling that he's crazy. Il processo a Terry Broome ha inizio. La sentenza viene pronunciata il 19 giugno 1986 e la sentenza è omicidio volontario non premeditato, 14 anni di reclusione. Nel maggio 1987 la Corte riconosce un vizio parziale di mente, la condanna viene ridotta in appello a 12 anni e 6 mesi, poi la pena, come accade sempre in Italia, viene ridotta ulteriormente, scendiamo a 7 anni e mezzo di carcere, 4 dei quali trascorsi in semilibertà per buona condotta, con un lavoro diurno prima di ceramista e poi di insegnante di inglese. Proprio durante il periodo a Bergamo, Gian Gavino Sulas è cronista al quotidiano La Notte, conosce Terry Broome. Si aspetta di trovare una donna navigata, un'assassina, invece rimane colpito dalla sua semplicità. Riesce a incontrarla quando è in regime di semilibertà, fa parte di un laboratorio di ceramica gestito da una ex terrorista di prima linea, Vincenza Fioroni. Lei accettò una chiacchierata, ormai parlava l'italiano. Dunque, prima di tutto lei aveva i capelli cortissimi alla maschietta, era sempre una gran bella ragazza, insomma. E poi soprattutto una delle prime cose che mi colpì fu il tratto di questa ragazza, molto semplice, non aveva nulla della vamp, della diva, della modella che se la tira, bella ma normalissima, che accettò di chiacchierare, di sorridere, di raccontarmi il lavoro che faceva, di ammettere che aveva sbagliato e che non vedeva l'ora di tornarsene a casa, di lasciare l'Italia, di lasciare il carcere, di lasciare Bergamo e di tornarsene negli Stati Uniti. Ho questo vago ricordo, io e lei in piedi, che chiacchieriamo ma con grande tranquillità, con grande normalità, come se parlassi con una persona qualunque, ecco. Nella cooperativa di promozione ceramiche artistiche di Bergamo, in cui sono impegnati molti ex detenuti, l'amicizia tra Terry Broome e Vincenza Fioroni ha fatto parlare molto, ha dato vita anche a dei pettegolezzi secondo cui era nata una relazione sentimentale tra la Broome e la Fioroni. Anche Terry, nel memoriale che rilascia in esclusiva al settimanale Oggi, prima di lasciare l'Italia, parla di questo. Con Vincenza Fioroni ho legato in modo particolare. Parlava benissimo l'inglese. Mi aiutava a seguire le pratiche processuali traducendomi una montagna di documenti. E poi ci siamo fatte mettere in cella insieme e mi ha insegnato l'italiano. E così è nata questa amicizia. Lo so, i giornali hanno scritto che avevamo un rapporto omosessuale, ma per carità, a me piacciono gli uomini, non le donne. Vincenza mi ha dato una mano. Avevo bisogno di un'amica, di una persona che mi desse affetto. Era diventata mia amica. È con lei che ho lavorato nei primi mesi di semilibertà e sempre con le ceramiche avevamo messo su una bottega nel centro di Bergamo. Siamo nel 1987, anche se sono passati 3 anni dall'omicidio, l'opinione pubblica non dimentica, è sempre attratta dalla figura di Terry Broome. Poi adesso che c'è anche questa latente storia che dà adito ad altre malignità, quella con la ex terrorista Vincenza Fioroni, se ne parla ancora, al punto che lo stesso Enzo Biagi, che ormai non è più un cronista, scriverà un pezzo di commento su Terry Broome. Sentiamone uno stralcio. La ragione del nuovo peccato sarebbe Vincenza Fioroni, maestrina e già militante di prima linea. Anche le ex terroriste dunque avrebbero un animo ed eccessivamente sensibile. L'assassino e la brigatista legate da morbosi e anche felici tormenti. Ignoro come stanno le cose, chiamiamole così, ed è una verità che nessuno dovrebbe avere interesse ad appurare, perché questa esasperata completezza dell'informazione rivela uno scarso rispetto per la persona umana, specialmente, come in questo caso, quando ha già pagato il prezzo di una avvilente notorietà. Il mostro, oltre che in prima pagina, può finire anche in quarta o in quinta. E se al sangue si aggiunge un po' di torbido erotismo, il cocktail è quasi perfetto. So com'è facile sbagliare nel nostro lavoro. So che il concetto di pudore è stato largamente superato. Ma queste vicende di presunte amiche del cuore, sbandierate senza riguardo, mi sembrano alquanto incivili. In quegli anni di carcere trascorsi prima a San Vittore, poi a Pavia e infine nel carcere di Bergamo, dove il trattamento è più umano, e durante il regime di semilibertà vive una seconda vita Terry Broome. A soli 33 anni rivede il sole da donna libera. Il 22 febbraio 92 ha finito di scontare la sua pena. Sembra una ragazza ritrovata. Vorrei un amore vero, magari dei figli. Non ho mai pensato molto a un figlio, ma ora ci penso spesso. Avrò amici puliti. Questi 7 anni di carcere nella tragedia sono stati la mia fortuna, perché se no avrei continuato a vivere come facevo allora. Oggi chissà dove sarei, forse a trascinarmi come un automa da un night all'altro, o forse sarei morta. Andrò in America, non so dove, ma potrò godermi di nuovo il calore della mia famiglia, a partire da mia madre. Una donna dolcissima, che mi ha dato sempre tutto e che io finora ho solo deluso. Starò un po' con lei, poi andrò in Texas da mio fratello Marx, a Washington dagli altri miei fratelli, nel South Carolina, dove vive la mia vecchia nonna, e infine andrò a vivere per conto mio e deciderò cosa fare. Ho 33 anni. Sono ancora giovane, no? Di Terry Broome sono scomparse le tracce. Oggi ha 56 anni, probabilmente è in America, sicuramente ha fatto di tutto per essere dimenticata da un mondo che le ha fatto vivere una prima parte della sua vita in maniera speed, in maniera veloce, turbolenta e infine tragica. E quindi io me la immagino capace di ricostruirsi una vita completamente diversa, lontano dai riflettori e mi auguro anche dalla cocaina, dall'alcol e dal dolore che ha provato nella prima parte di vita. Anche questo a suo modo è un colpo d'ala, e forse il grande colpo d'ala di Terry Broome è quello che non conosceremo mai, quello della sua seconda vita. Se avete altre idee sulle persone sulle quali volete che noi si posi la nostra attenzione, fatelo, scriveteci alla pagina Facebook del Falco il Gabbiano, scriveteci ai vari siti di Radio 24, insomma se volete ci trovate e mi trovate. Ciao a tutti, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso.